Caro compare, che già suonando, vai suonando la francaccia, dombe, dombe, tamborino, lumbramba, tambra, ciarmegliaro, lumberlule, la pepita, lo pepitepe, l'arganet, cipo, cipo. Caro compare, che già suonando, caro compare, che già suonando.